Garam Masala. Masala. Il suono del clubbing tra down tempo e up tempo. Oh, remember that. Dancing on the structure 59. Garan Masala con Salvo Borrelli e la regia di Roberto Agosta. Garan Masala.